Buonasera a tutti, questa è Radio Live, questo è Altofest 2022, direttamente da Show Drink and Food in Vico Buongiorno. Siamo nel locale, nel bar di Giuseppe Giovinetti e Cinzia Baldassarre, che sono nonché donatori di spazio, donatore e donatrice di spazio, in piazzetta Crociferi per i due artisti Valeria Caboi e Manuel Pigneiro, ma comunque sono storici donatori di spazio. E questo è l'amaro dell'economia e io sono in compagnia di Maurizio Lampi e di Claudia Fabris, un economista e una poetessa che quest'anno all'interno di Altofest 2022 a Napoli sono stati artefici e curatori di congiunzione e di una ricerca, di uno studio di ricerca sulle economie di Altofest. Io intanto lascio il microfono prima a Maurizio e a Claudio per ognuno di loro salutare e presentarsi. Sì, sei stato perfetto, quindi c'è poco da aggiungere. Noi riprenderemmo con qualche pillola del testo che avevamo preparato, per cui darei subito la parola a Claudia. Allora io buonasera a tutti. Io non sono a Padova, non sono a Napoli, sono a Padova, quindi questo è, come dire, è stata una residenza ubiqua. E io ripartirei da dove abbiamo lasciato e ripartirei proprio da una clip audio che abbiamo registrato con lo speaker radio, con Giovanni Passariello. Vado. E poi attacchiamo un pezzo di questo lavoro, un pezzo che non avevamo presentato la sera dell'inaugurazione. Vado? Vai. Vado. È il capitalismo stesso a essere profondamente e irriducibilmente bipolare, periodicamente oscillante tra stati di eccitazione incontrollata, esuberanza irrazionale delle bolle e crolli depressivi. L'espressione depressione economica non è evidentemente casuale. Il capitalismo nutre e riproduce il timore della popolazione a un livello che nessun altro sistema sociale ha mai sfiorato. Senza delirio e senza fiducia in se stesso, non saprebbe proprio come funzionare. È il capitalismo stesso a essere profondamente e irriducibilmente bipolare, periodicamente oscillante tra stati di eccitazione incontrollata, esuberanza irrazionale delle bolle e crolli depressivi. L'espressione depressione economica non è evidentemente casuale. Il capitalismo nutre e riproduce gli umori della popolazione a un livello che nessun altro sistema sociale ha mai sfiorato. Senza delirio e senza fiducia in se stesso, non saprebbe proprio come funzionare. È il capitalismo stesso a essere profondamente e irriducibilmente bipolare, periodicamente oscillante tra stati di eccitazione controllata, esuberanza irrazionale delle bolle e crolli depressivi. L'espressione depressione economica non è evidentemente casuale. Il capitalismo nutre e riproduce gli umori della popolazione a un livello che nessun altro sistema sociale ha mai sfiorato. Senza delirio e senza fiducia in se stesso, non saprebbe proprio come funzionare. Prima di farlo mi chiedono sempre quanto vuoi e io vacillo, perché dentro di me lo so che dovrei farlo gratis, perché l'amore lo devi fare gratis, o non è amore? E l'arte, la bellezza risuonano nello stesso luogo in cui è la grazia e l'amore, o non è arte? E dovrebbe essere gratis, lo sentiamo tutti, come il mare, le stelle, l'erba, i baci, la pioggia e il latte, dovrebbe essere gratis. Mi chiedono quanto vuoi, come se davvero credessero che il distillato della mia vita potesse avere un prezzo, come se il distillato della loro o della vostra o un'ora della vostra vita potesse avere un prezzo, come se davvero ci fossimo convinti che una mela, una zucca, una spiaggia, una montagna o un'isola potessero avere un prezzo. Ma tu la sai rifare una mela, la sai rifare una zucca. Un enorme valore, ma nessun prezzo. È come se mi chiedessi serio, quante cavallette ci vogliono per costruire una casa, quante zucchine impiegherai per fare un tavolo. Sono sostanze che non si possono comparare, e allora neppure comperare. Eppure si deve vivere in questo mondo e mangiare, viaggiare, costruire e farlo in serenità. E questo è il mio lavoro, così mi guadagno il pane, con le rose. E allora dopo anni di rossore e pudore, di piccole costanti umiliazioni, io l'ho capito qual è il mio prezzo, sempre. È il prezzo più alto che tu ora puoi permetterti per qualcosa che ti rende felice e ti fa del bene. E lo puoi sapere solo tu, non lo posso decidere io o il mercato. Io ho portato il meglio di me, tu ora fai la tua parte e sii generoso con la tua felicità e con me. E se non ti avrò fatto del bene, se non ti avrò reso un poco felice, sentiti pure libero di non lasciare nulla. Perché poi, sai, i soldi non sono mai il punto, non sono mai il problema vero. Mi sono stati offerti decine di lavori, terminando con la frase «ma non ci sono i soldi, abbiamo pochissime risorse». E io ogni volta ho pensato che il punto non è che ci fossero o non ci fossero i soldi, il punto è che non ci sono le idee, il punto è che questo sistema ci ha lobotomizzati così tanto che non ci viene in mente nulla da scambiarci al posto dei soldi. Non ci rendiamo conto che è solo un gioco e che l'abbiamo inventato noi e che possiamo uscirne quando vogliamo. Chi ci impedisce di scambiarci altro? Chi ci impedisce di scambiarci direttamente vita, che poi sta nascosta dietro ai soldi ed è ciò che gli dà valore, il tempo, il nostro? Chi ti impedisce di invitarmi ad un pranzo sontuoso organizzato dalla tua famiglia, di raccontarmi la storia più bella che tu abbia mai sentito, o di rivelarmi un segreto che hai scoperto a fatica e sei solo tu, o di insegnarmi la ricetta più buona di tua nonna? Chi ti impedisce di essere creativo nello scambio e generoso? Sei libero, ma ti prego non arrivarci come un mendicante a quello scambio. Quindi, cara... di fatto in questo testo hai elaborato una tua teoria sulla determinazione del prezzo, mi pare. Anzi, lo hai fatto come se questo fosse proprio una formula di relazione. E questo mi sembra molto interessante. Comunque, pensa che economisti davvero di ogni orientamento hanno lavorato su questa questione negli ultimi 200 anni. Tra l'altro partendo dall'assunto che il prezzo è appunto il risultato dell'incontro fra domanda e offerta, che a ben vedere è quello che fai anche tu, solo che loro lavorano in digitale, cioè su macrosistemi, e tu in analogico, mi pare, cioè declinando lo stesso principio su di te e le persone che incontri. Giusto? È così? Beh, io sì. In un certo senso sì, io diciamo che io sono convinta che questa è una delle cose di cui sono più convinta, che la sapienza non sta nei libri, la sapienza sta nei corpi. Dopotutto un sapore salato, da sapio sapis, il verbo latino, che vuol dire avere un sapore salato. Nei libri c'è la memoria di una sapienza, che deve essere portata in gravidanza, in gestazione nei corpi per tornare viva e fertile. Finché le idee rimangono astratte, finché si fanno teorie, come dici tu, in digitale, coi numeri, con numeri che vengono percepiti come quantità e non come qualità, come invece sono, finché le idee rimangono astratte hanno poche speranze di rivoluzionare il mondo, anzi, secondo me non ce l'hanno nessuna. Un proverbio africano che amo molto dice che finché non è nella carne, la conoscenza è solo rumore. È pieno il mondo di studiosi, filosofi, artisti che predicano molto bene, hanno grandi teorie e poi razzolano malissimo. Bellissima questa. Guarda, se Giovanni ci conferma che abbiamo 5 minuti, io avrei proprio qui sotto mano, per puro caso, un documento che vi leggerei. Giovanni, abbiamo sì un pochino di tempo. Perfetto. Allora, io leggerei questo. È una lettera, più proprio una lettera privata. Che fa così. Mio caro amico, cortesemente permettetemi le seguenti osservazioni. 1. Se desiderate continuare ad avere rapporti con mia figlia, dovrete rinunciare al vostro stile di corteggiamento. Sapete bene che non ci sono ancora decisioni prese, che tutto è ancora nell'aria. Abituarsi a rapporti eccessivamente familiari è tanto più improprio considerando che dovrete risiedere nello stesso luogo durante un periodo necessariamente prolungato di rigorose prove e purificazioni. 2. A mio avviso il vero amore esprime se stesso nella riservatezza, nella modestia e persino nella timidezza dell'amante nei confronti del suo idolo. E per niente negli eccessi emotivi, nell'intimità prematura. Quindi ho il dovere di usare il mio buon senso per moderare il vostro carattere e impedirmi di fare un passo più forte. Se non potete esprimere il vostro amore per lei in termini di latitudine londinese, dovrete rassegnarvi ad amarla a distanza. Immagino di non aver bisogno di spiegarlo ulteriormente. 3. Prima che sia compiutamente definita la vostra relazione con Laura, e qui andiamo al tema che ci interessa, i soldi, devo avere completa chiarezza sulla vostra situazione finanziaria. Mia figlia pensa che io sia informato sui vostri affari, ma ha torto. Finora non ho sollevato questi argomenti perché sentivo che era compito vostro prendere l'iniziativa. Sapete che ho sacrificato tutte le mie ricchezze alla lotta rivoluzionaria. Non me ne pento. Anzi, se dovessi ricominciare la mia vita, rifarei le stesse cose. Però non mi sposerei. Per quanto posso, voglio salvare mia figlia dagli scogli che hanno mandato in frantumi la vita di sua madre. Per quanto riguarda la vostra situazione attuale, le informazioni, che non ho cercato, ma ho ricevuto per caso, non sono affatto rassicuranti. Ma lasciamo perdere. Quanto alla vostra posizione generale, so che siete ancora uno studente e che le vostre possibilità sono da considerarsi, nella migliore delle ipotesi, estremamente problematiche. In queste circostanze dipendete dall'aiuto degli altri per percorrere il sentiero della vita insieme a mia figlia. Non so niente della vostra famiglia. E anche se fosse benestante, tuttavia, ciò non dimostrerebbe che sarebbe disposta a fare sacrifici per voi. Non so nemmeno come il vostro matrimonio potrebbe far parte di un progetto. 4. Ciò che per me è necessario, lo ripeto, è un chiarimento positivo agli interrogativi posti da tutte queste domande. E a proposito, voi, un realista dichiarato, non potete aspettarvi che tratti il futuro di mia figlia come un idealista. Una persona positiva come voi, che vuole abolire la poesia, non vorrà fare poesia a danno di mia figlia. 5. Vorrei che questa lettera rimanesse solo fra noi due. Aspetto vostra risposta. Vostro Karl Marx, Londra, giugno 1866. Ecco, la lettera è diretta a Paul Lafargue, che appunto corteggiava la figlia di Marx. E pensa, mia cara cameriera, che a proposito di coerenza e di idee vissute nella carne, una ventina di anni prima, lui medesimo, Karl, aveva scritto queste parole, abbastanza note. La borghesia ha strappato il commovente velo sentimentale al rapporto familiare e lo ha ricondotto a un puro rapporto di denaro. Karl Marx, Friedrich Engels, Il manifesto del Partito Comunista, capitolo primo, Borghesi e proletari, Londra, 1848. Caspita, ma poi com'è andata a finire? Com'è andata a finire tra Paul e Laura? Si sono suicidati. Oh mamma, come suicidati, tutte e due? Sì, no, nel senso si sono prima sposati e poi dopo un'intera vita passata insieme si sono suicidati insieme. Anzi, se vuoi, avevamo, rammenti, qui la lettera di commiato al mondo, chiamiamola così. Beh, leggila. Sano di corpo e di spirito, mi uccido prima che l'impietosa vecchiaia mi tolga uno ad uno i piaceri e le gioie dell'esistenza e mi spogli delle forze fisiche e intellettuali. Affinché la vecchiaia non paralizzi la mia energia, non spezzi la mia volontà e non mi renda un peso per me e per gli altri. Da molto tempo mi sono ripromesso di non superare i 70 anni. Ho fissato una stagione dell'anno per il distacco dalla vita e ho preparato il sistema per mettere in pratica la mia decisione. Un'iniezione ipodermica di acido cianidrico. Muoio con la suprema gioia della certezza che in un prossimo futuro la causa alla quale mi sono votato da 45 anni trionferà. Viva il comunismo! Viva il socialismo internazionale! Ecco, sostanzialmente un estratto del testamento di Paul, trovato morto insieme alla moglie Laura il 25 novembre 1911. Hanno affrontato tutta la vita insieme e insieme sono andati una sera incontro alla morte. Il funerale si è svolto al cimitero parigino del Père Lachaise. Va segnalato che fra gli altri era presente un certo Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin. Muoio con la suprema gioia della certezza che in un prossimo futuro la causa alla quale mi sono votato da 45 anni trionferà. Professore, visto che il comunismo sembra non aver trionfato, sembra che Paul si sia sbagliato clamorosamente e che nel 2008 ci siamo trovati in una crisi mostruosa, ma come abbiamo fatto, partendo da questi presupposti di felicità sociale di cui abbiamo sentito l'altra sera con Filangieri e della Costituzione americana, della Dichiarazione di Indipendenza americana, di ricerca dell'eguaglianza, di ideali di giustizia, ad arrivare a questo? Come siamo arrivati a questo disastro, professore? Guarda, se dovessi sintetizzare, direi dalla teoria della mano invisibile. La teoria della mano invisibile. Mi ricorda la teoria della spermatozoo volante quando ero adolescente. Cos'è la teoria della mano invisibile? Questa è carina, non so quanto queste definizioni si somiglino. Comunque, la prima è di Adam Smith. E se vuoi te la leggo tutta, ce l'ho davanti, non è molto lunga, sì, così sì, siamo leggi. Nei tempi. Ogni individuo si prefigge solo la sua sicurezza, il suo guadagno. In ciò è guidato da una mano invisibile per prefiggersi un fine, che non ha nessun interesse della sua intenzione. Perseguendo il suo interesse, spesso il soggetto promuove quello della società più efficacemente di quanto realmente intenda promuoverlo. Non ho mai visto che sia stato raggiunto molto da coloro che pretendono di trafficare per il bene pubblico. Cioè, vediamo se ho capito, vorrebbe dire che secondo questa teoria chi persegue il proprio interesse in realtà alla fine fa anche quello della collettività senza volerlo, perché c'è una mano invisibile che aggiusta magicamente le cose. È esattamente così, perché pensava che l'uomo fosse sostanzialmente un egoista. E c'è qualcuno che l'ha presa proprio così sul serio? Guarda, come è noto, dal 1980 circa, la Thatcher per capirci, fino al 2008, un manipolo di teorici, politici, capitalisti e manager, anche di accademici bisogna dire, l'hanno usata per giustificare tutto quello che hanno fatto e che abbiamo sotto gli occhi. Allora, mettiamo, professore, vediamo se veramente faccio un riassunto. Mi sta dicendo che per tutta la vita io mi sono sentita dire che ero idealista, utopista, che le mie idee non avevano alcuna speranza di realizzarsi, che non sono in grado di pensare e guardare razionalmente la realtà e che ero infantile, da persone che hanno stritolato la vita dentro regole di mercato assurde che vanno contro i principi stessi della vita e che giustificavano le loro idee a partire da una teoria che presupponeva che ognuno potesse fare quello che voleva perché tanto ad un certo punto una mano invisibile avrebbe sistemato gli squilibri. Ma sta scherzando? E poi l'idealista sono io. In effetti, purtroppo, è andata proprio così. E tra l'altro non dicevano solo questo, ma anche, per esempio, che il mercato sia autoregolante, cioè non abbia bisogno di nessun correttivo, che l'uomo agisce sempre facendo scelte razionali, no? Il famoso homo economicus e altre amenità. Fra l'altro, tutto questo nel Novecento ha creato le premesse per ben due guerre mondiali e il massacro di cui tutti abbiamo studiato. Proprio per questo, dopo quell'esperienza terribile, per qualche decennio si è tentato di andare in una direzione diversa. Praticamente questa idea del mercato autoregolante, della mano invisibile, ha qualcosa di teologico. È come se avessero sostituito l'idea di natura con l'idea di mercato. Di più, hanno fatto coincidere il mercato con la vita, ma proprio in generale con la vita sulla terra, nel senso che il mercato l'ha invasa la vita. Anzi, come diceva Mark Fisher, di cui Giovanni è un profondo conoscitore, lo ha fatto questa operazione facendoci credere, fra l'altro, che non ci fosse nessuna alternativa a questa invasione. Mark Fisher, l'autore di Realismo Capitalista, da cui è tratta la frase robotica appunto di prima che abbiamo sentito all'inizio da Giovanni, e purtroppo si è suicidato nel 2017. Il paradosso è che quando a questi signori è esploso in mano tutto e hanno ridotto sul lastrico milioni di famiglie, invece di assumersene le responsabilità, sono andati dallo Stato a mendicare, a battere cassa per salvarsi, bisogna dire soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, il che è scandaloso. Tra l'altro, queste cose, per capirci, Adam Smith non le pensava davvero, Anzi, la sua, con la mano invisibile, era una critica ad alcuni capitalisti del tempo che ce l'avevano con gli eccessi di protezionismo. Pensa che l'immagine invisibile, tra l'altro, l'ha presa dal Macbeth di Shakespeare. Sempre lui, sempre Shakespeare, sempre il teatro. Totus mundus agit histrionem. Tutto il mondo si comporta come un attore, tutto il mondo recita. È la scritta che campeggiava sul Globe Theatre di Shakespeare, sempre valida. Mentre professore, mentre parlava, sa di cosa mi sono resa conto? Sono accorta che praticamente Adam Smith significa Homo Faber, perché Smith è il fabbro in inglese, Adam è l'umanità, l'uomo come archetipo in ebraico. È bellissima questa. È praticamente un mio parente, Claudia Fabris, sì, un mio parente, come dire, un antenato, fa parte della famiglia. Perfetto, c'ero arrivato. Mi sembrerebbe una fine provvisoria perfetta. Anche a me, anche a me. Forse Giovanni vuole aggiungere, visto che lo abbiamo più volte chiamato in causa. Vabbè, così chiude in qualche modo, anzi gli Giovanni, ripasserei la parola. Sì, cedigli la parola. Beh, molto bello quello che avete detto, bello allo stesso tempo realista. E qua la citazione non è in, come dire, inconsapevole, è molto consapevole. No, ma non ho molto da aggiungere, se non il fatto che come il teatro, c'è teatro di ricerca, c'è teatro che si sofferma sulla domanda, ma sulla domanda comunitaria, quindi non è che si riflette. C'è anche teatro di intrattenimento, oppure c'è spettacolo. E come appunto Adam Smith con la sua critica sottolinea che c'è invece qualcuno che gioca con la comunità, quindi pensa che il singolo individuo faccia, in fin dei conti, il bene di una comunità, sta facendo il gioco del mercato. Il mercato è come se fosse il teatro di intrattenimento, come se fosse lo spettacolo, qui qua come se si ritornasse poi al discorso di The Board, quindi è continua ancora a essere una società dello spettacolo, lo è sempre stato probabilmente, che a nome dell'individuo non c'è parola, molto probabilmente, perché la parola poi si condivide. Invece, se l'individuo si sente portatore di una verità, non c'è alcuna verità. E non c'è il senso della comunità, di un agire comunitario. Esatto, quindi mi vengono in mente tante cose che vi sono state dette, che avete detto, tra cui anche l'ultima voice over sul discorso dell'identità. Probabilmente dovremmo un po' riflettere tantissimo su cosa vuol dire identità, anche con grazie agli economisti africani. Anche ieri sera, sempre con la mano dell'economia, sul discorso dell'omofilia. Probabilmente abbiamo noi occidentali un grande problema con il linguaggio, ma anche e soprattutto il discorso del linguaggio economico. Vediamo solo l'individuo, non vediamo abbiamo una fedeltà, una fedeltà di un linguaggio individualista che forse è superiore alla prigione, diciamo, delle religioni, del cristianesimo, del cattolicesimo. È come se non uscissimo più, non più, se, siamo riusciti a, diciamo, a scardinare, a focalizzare, a razionalizzare ciò che la religione ha determinato la nostra società. Adesso non riusciamo più ad uscire dal capitalismo, e per quello probabilmente la Thatcher ha vinto, perché non c'era alternativa. Speriamo provvisoriamente sempre, no? La speranza bisogna conservarla. Comunque Giovanni ha aperto a 10.000 altri orizzonti, molto belli. Io non raccolgo la palla adesso, perché sennò vi tengo qui fino all'1. La raccolgo la prossima volta. Bene, sì. Così riserviamo la continuazione alla prossima pillola. Sì, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora salutiamo tutti con questa... chiusura provvisoria. Cioè sì, secondo me sì, salutiamo. Cosa dite? Quanto, cioè, mi sembra un sì, buon tempo. Sì, vabbè, io non so, perché mi sono stato molto immerso in tutto quello che vi ho detto, quindi io non so quanto tempo è passato. Neanch'io, non lo so. L'unico ce lo può dire, vabbè, comunque, ragazzi, è stato... Possiamo, se ci sa, diciamo così, che se ci sarà modo, ma non, è possibile di no, o forse sì, cioè l'ultima parte, manca ancora l'ultima parte al lavoro, quindi c'è ancora un'altra parte che, okay, che è la metafisica dell'economia. Va bene, allora facciamo che domani è l'ultimo giorno, riusciamo a fare, se riusciamo, se certo, c'è tempo e riusciamo, più che volentieri. Va benissimo, grazie. Va bene, Claudia, un bacio grandissimo anch'io. Ciao Claudia, ciao a tutti. Ciao. Grazie a tutti, questa è stata Radio Live e questa era la Mano dell'Economia, ma questi erano Maurizio Lampi e Claudia Fabris. Grazie per il vostro lavoro e grazie ad Altofest, come sempre. Ciao! Ciao!